Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Benvenuti a questa puntata speciale dedicata al premio Gamma Donna 2017. Giocano tutte nello stesso campo le imprese femminili, il digitale, e così tracciano la strada per tutte le piccole e medie imprese. E infatti l'edizione di quest'anno è dedicata alle skills e alle competenze nuove per fare impresa nell'era digitale. Questo è il titolo del nono Gamma Forum nazionale dell'imprenditoria femminile e giovanile, che si è tenuto il 16 novembre scorso presso la sede del Sole 24 Ore. Secondo i dati Union Camere e Infocamere di settembre, infatti in Italia il trend delle nuove imprese è rosa e giovane. 4 imprese femminili su 10 sono nate dopo il 2010, seguidate da uomini solo 3 su 7. Più del 12% sono guidate da under 35. Digitalizzazione cruciale e trend confermato anche per le 52 imprese italiane candidate al premio Gamma Donna, tra cui l'80% ha meno di 10 anni di vita. Ecco l'identikit in dettaglio di Valentina Parenti, presidente di Valentina Communication e co-founder dell'associazione Gamma Donna. Quello che è emerso chiaramente tra tutte le candidature che abbiamo ricevuto è che la digitalizzazione è ampiamente diffusa tra queste nuove imprese innovative e viene percepita come un fattore cruciale di competitività e di miglioramento dell'efficienza organizzativa. Tra l'altro, oltre il 50% delle candidature ha legami con l'università, con i centri di ricerca, che sono molto importanti per il discorso dell'open mindedness, ovviamente, e attua delle forme di smart working. Che cosa manca a queste imprese per riuscire, diciamo, a sfondare ancora di più, cioè a svilupparsi in futuro anche guardando a nuove professioni digitali e sempre sul canale digitale? Una grande sfida da affrontare, e che è emersa un po' da tutte le candidature, è quella di affermarsi sui mercati esteri, quindi l'internazionalizzazione. Una stranezza che abbiamo notato, una peculiarità che secondo me è abbastanza tipica del nostro paese, è che soltanto il 20% delle imprese che si sono candidate, nonostante la candidatura venisse proprio sul presupposto dell'innovazione e dell'innovatività, soltanto il 20% ha depositato brevetti. E veniamo ai premi. Vi raccontiamo la storia della vincitrice tra le 6 finaliste del premio Gamma Donna 2017, le cui storie si possono ascoltare nella sezione extra della pagina programma di Voci d'Impresa, dedicata alle anteprime sul sito www.radio24.it. E la storia di Betta Maggio, che con You Heart ha deciso di ribaltare in azienda le priorità e di portare il cambiamento climatico tra le voci di bilancio. You Heart ha messo a punto un sistema che cattura e digerisce attraverso l'uso di batteri naturali, non patogeni e non geneticamente modificati, ogni tipo di inquinamento dell'aria, liberando ossigeno. Si tratta di sistemi di detox per le città, veri e propri concentrati di foresta. Il purificatore è piccolo e alto meno di un metro, ma il suo impatto equivale a quello di 276 querce. La versione grande rende come 6.000 alberi e assorbe fino a 71 kg di contaminanti al giorno. I dispositivi possono essere utilizzati ovunque, dagli uffici alle fabbriche, alle scuole, ospedali e hotel. L'idea è pulire questo pianeta dall'inquinamento più velocemente possibile, prima che l'inquinamento si saturi dentro le nostre cellule, e quindi vorremmo farlo nella maniera più veloce possibile, in una maniera completamente naturale. Quindi abbiamo messo a punto un sistema biotecnologico dopo 20 anni di studio, che oggi può essere scalabile e può essere posizionato ovunque. Per questo dovete anche spiegare il più possibile a che cosa serve in questo mondo in cui fanno più paura certe cose piuttosto che il cambiamento climatico. Queste soluzioni devono essere adottate. Per essere adottate c'è solo una grande motivazione, che è quella della gente che le vuole. Quindi se se ne parla e la gente le chiede, le innovazioni succedono, come il wifi, come le app, come tutti i prodotti. La gente vota col proprio portafoglio un mondo migliore. Quanti siete? Che cosa fate in pratica per mettere a punto, insomma, il vostro messaggio? Da quando siete nati? Allora, siamo un core team di una decina di persone. Il core è proprio molto femminile. Ho degli ingegneri fantastici che ci stanno seguendo da sempre e che hanno gettato il cuore oltre l'ostacolo e ci hanno affiancato in maniera eccezionale. Siamo un team internazionale, ovviamente, speriamo di riuscire a portare l'azienda adesso a un prossimo livello con la partnership di tutte le aziende che vogliono far sì che nel loro piano di marketing, nel loro piano di sostenibilità, sia compresa anche la pulizia dell'aria e di conseguenza dei contaminanti che affliggono questo pianeta. Una voce che entra in bilancio. Sì, assolutamente, la voce è fondamentale, perché tantissime persone che vengono a contatto con il nostro progetto ne rimangono folgorate, perché non pensavano ci fosse una possibilità di uscire da questa situazione. Siamo tutti molto passivi rispetto alle brutte notizie. È bello dare delle buone notizie, è bello instillare speranza, è bello instillare una missione per un futuro migliore per i nostri bambini. Che cosa fate per pulire l'aria? Qual è in pratica il risvolto concreto della vostra azione? Meraviglioso vedere tutti coloro che utilizzano il nostro sistema cambiare vita. Cioè stanno meglio, ci dicono non ho più la sinusite, non ho più il mal di testa, riesco a svegliarmi, sono più attivo, mi piace da morire. E stanno imparando qual è l'odore dell'aria pulita. Quali sono le metodologie che usate? Per dare un esempio. Inseriamo un sistema biotecnologico che è come una piccola foresta concentrata di 276 querce ogni 100 metri quadri. Questo sistema viene accoppiato a un sistema che si chiama U-Monitor, che è un sistema di monitoraggio in cloud, che con tutti i dati che dice esattamente la qualità dell'aria in quello spazio. E queste due cose insieme hanno poi un logo fuori dalla porta che si chiama Pure Air Zone, con una spirale, una specie di sole, che vorremmo che fosse riconosciuto un po' come il simbolo del Wi-Fi. Se entri lì dentro c'è l'aria pulita. Avete avuto degli aiuti? Come avete fatto a svilupparvi? Chi vi ha aiutato per crescere come azienda? Nel nostro caso non abbiamo avuto aiuti finanziari, non abbiamo avuto sovvenzioni. Abbiamo fatto tutto da soli. Il premio Gammadonna come l'ha vissuto? Ecco, è soddisfatta? Sono incredula. Di solito è sempre la ribalta di qualcos'altro più urgente, più commerciabile, più trendy, diciamo. No? In questo caso l'aria pura non è stata mai molto trendy. Però una volontà di cambiamento già ripaga tutto quello che abbiamo fatto fino adesso. Ecco, il vostro modello di business, parliamo di cifre e numeri, qual è? È quello di essere più scalabile possibile. Abbiamo coinvolto tante aziende italiane eccellenti che possono produrre questo prodotto in tutto il mondo e consegnarlo ovunque, perché noi abbiamo un'eccellenza su questo paese che è straordinaria. Il liquido, la biomassa viene dagli Stati Uniti e quindi c'è un connubio di tecnologia e di saper fare. La seconda storia è quella di un'altra premiata vincitrice del premio QVC Next Award, è quella di Antonella Bellina, fondatrice di Due di Latte, innovazione nel settore moda che parte dal tessuto usato per produrre i capi della collezione creata dalla caseina del latte, cavata dalle eccedenze industriali del settore agroalimentare. L'azienda è nata nel 2013, l'idea è nata molti anni prima, perché chiaramente studiando nel mondo del tessile e la merceologia ho fatto tutta una serie di studi specifici che mi hanno portato poi a conoscere determinati tipi di lavorazione. Poi nel 2013 ho fondato l'azienda appunto Due di Latte e da lì abbiamo iniziato a mettere a punto un processo che poi portasse a un prodotto finito. C'è stato un fatto che ha fatto capire come era importante riciclare il latte. L'educazione al non spreco è una cosa che a me fin da piccola mi hanno sempre insegnato. Dai nonni non si butta via niente, bisogna sempre stare attenti, eccetera. Col latte nel frigo? Sì, il latte nel frigo è stata come la mela caduta in testa a Edison, sostanzialmente. Cioè, ho avuto questa illuminazione che è stato un po' collegare quell'evento specifico, quindi il latte che ho trovato scaduto nel frigorifero, è come se in quel momento mi si fosse aperto il cassettino della memoria di quello che avevo studiato, che col latte si fa una fibra. E quindi collegare un latte da buttare a una potenziale risorsa è stato lì, credo, il colpo di genio, diciamo. Come siete diventati impresa? Chi vi ha aiutato? Quanto iniezione di capitale ci è voluto? L'impresa è nata sostanzialmente dal commercialista, cioè abbiamo deciso di aprire piano piano, aprire una piccola società e iniziare con capitali personali, e tuttora non ho avuto nessun tipo di finanziamento di tipo, diciamo, da investitori esterni, eccetera. Ho portato avanti tutto con le mie forze. Ecco perché oggi mi trovo sì con un prodotto che è finito ed è stabile, quindi pronto a essere industrializzato. Mi piacerebbe riuscire a carpire magari forze anche di tipo finanziarie un po' più importanti che mi dessero la possibilità di crescere e svilupparlo. Ecco, i numeri, il modello di business, quanti siete, che fatturato avete, quali sono le prospettive, soprattutto i costi dei vostri servizi, dei vostri prodotti? Dunque, i numeri sono molto bassi perché comunque siamo una startup dove ad oggi si cerca di avere il più basso numero di costi fissi possibile e anzi cercare di essere il più elastici possibile in tanti settori, soprattutto nella produzione, che è quella che a noi comporta il maggiore sforzo economico. La fortuna è quella di aver messo su una filiera molto responsabile, oltre a essere molto competente, perché a oggi nel parco, diciamo, lavoro si conta filatori, tessitori e poi appunto manifatture 100% italiane che hanno messo a disposizione i loro plant produttivi, quindi fortunatamente in questo senso io di due di latte non ho l'onere di avere un'industria, però loro, ecco, hanno messo a disposizione mia i loro plant produttivi e hanno creduto tanto in questo progetto, di conseguenza anche la loro parte di investimento e di know-how è stata importante. Ecco, per quanto riguarda i prodotti, è un B2B oppure è un B2C? Come li vendete, quando li vendete? Allora, la commercializzazione, cioè vera e propria, ci sarà dall'anno prossimo. A oggi c'è la collaborazione con uno showroom molto importante qua di Milano, che ha deciso di prendere in carica il nostro progetto e di distribuirlo attraverso punti vendita selezionati, specializzati soprattutto nel mondo del bio e del naturale, perché hanno già una coscienza di prodotto maggiore. E nel futuro la visione è quella di poter distribuire non soltanto un prodotto finito a marchio 2 di latte, ma anche la possibilità di lavorare magari in co-branding con aziende anche stabili, insomma anche brand importanti del settore, che decidono di creare collezioni magari con noi. Perché no? Una collezione al latte! È tutto, vi ricordiamo che le storie e le interviste del premio Gamma Donna 2017 si possono ascoltare nella sezione extra della pagina programma di Voci d'Impresa, dedicata alle anteprime sul sito www.radio24.it. Un saluto da Anna Maria.